Oscar. Per usare l'esempio di prima, io questi soldi li prendo e me li reinvesto, ci speculo, e cioè visto che li ho pagati l'1%, se io in questo momento come banca comprassi obbligazioni spagnole o italiane, bot, bonus, BTP, avrei un rendimento intorno al 5-5,5% netto, e quindi pago uno e guadagno il 5, e faccio i soldi. Seconda possibilità, invece uso questi soldi per tornare a aprire un po' i rubinetti verso le imprese e le famiglie. La prima possibilità ha anche un senso, perché la banca deve comunque guadagnare, ma diventa a mio avviso una bomba orologeria, perché ti riempi di nuovo di bot, BTP, bonus, se riparte un attacco speculativo a questo punto non ti ferma e non ti salva più nessuno. Secondo te cosa capiterà delle due? Io temo che in realtà i governi confidano. Prima si chiama carry trade. Carry trade. Io penso che i governi, soprattutto quelli più esposti, insomma, compreso il nostro, un po' confidi sul fatto che le banche facciano il carry trade. In realtà condivido la tua opinione. Sarebbe molto più salutare, non solo per l'economia reale, ma anche per gli stati di fronte a quello che devono fare, che non hanno fatto prima che non lo facessero. Abbiamo dichiarazioni di amministratori delegati di grandi banche che giurano sul fatto che verranno utilizzate il più possibile per l'economia reale, quindi per i prenditori. Non resta che monitorare con grande attenzione questa cosa, ma io credo che poi la capiremo sulla qualità e il tipo di operatori che partecipano alle prossime aste italiane, per capire se c'è qualche significativo mutamento rispetto alle ultime oppure no, perché per come stavamo messi prima, cioè con una tensione di liquidità molto forte, al di là dell'ufficialità, ma è così anche per le banche italiane, non potevano praticamente più essere i protagonisti incontrastati delle aste del debito pubblico italiano. Quindi vedremo se invece continueranno a tornare in forza, vorrà dire che fanno il carry trade.